Letture di Radio 24. Al comune di Portici, in provincia di Napoli, 58 dipendenti su 70 risultavano assenti sul posto di lavoro. Come scrive David Pierluigi nel suo libro Fannulloni, uno su sette svolgeva il suo lavoro. Gli altri si facevano timbrare il cartellino da chi al lavoro arrivava puntualmente. Un episodio che portò ad arresti e indagini. Ma com'è andata a finire? 36 impiegati pubblici arrestati. Così un anno fa titolavano i maggiori quotidiani della penisola. Qui al comune di Portici, in provincia di Napoli, 58 dipendenti su 70 risultavano assenti sul posto di lavoro. Uno su sette svolgeva il proprio lavoro. Gli altri si facevano timbrare il cartellino dai colleghi più ligi al dovere. Così a marzo 2009 la polizia arrestò 36 persone e ne indagò altre 22. L'accusa? Truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. L'operazione fu ribattezzata Free Badge. Due telecamere nascoste riprendevano il via vai negli uffici. Signori e signore del palazzo comunale se ne andavano a fare shopping lasciando file di gente in mano a una dozzina di colleghi seri e professionali. Purtroppo tutti i dipendenti sotto accusa hanno riavuto il posto di lavoro e torneranno allegramente in comune quando il provvedimento di riammissione diventerà esecutivo. Da Portici a Partinico, Sicilia, non è un viaggio, ma le scorciatoie per lavorare meno si trovano sempre. Con i suoi 31.000 abitanti, il comune alle porte di Palermo vanta un particolarissimo record. Il municipio più affollato d'Italia. Un dipendente ogni 63 abitanti. Totale 470 impiegati, distribuiti in 14 settori e 90 unità organizzative. Nella roccaforte dell'ozio figurano 19 impiegati all'anagrafe, 20 alla biblioteca, 28 alla casa di riposo, 9 ai servizi cimiteriali e 20 addetti al verde pubblico, anche se il parco comunale sta andando in malora. In compenso, gli addetti alla manutenzione degli immobili sono 25, di cui 7 distaccati a lavori di segnaletica e illuminazione stradale, mentre gli altri 18, secondo le solite malelingue, si limiterebbero a cambiare lampadine negli uffici comunali. Nessun altro esempio può illuminarci meglio sulla veridicità delle rilevazioni fatte in questi ultimi mesi, secondo cui il 25% dei dipendenti pubblici in Italia è improduttivo. Ancora oggi ci sono dipartimenti all'interno del comune di Portici che hanno tassi di assenteismo che superano il 30%. Una delle storie più incredibili di presenza fantasma in un ufficio pubblico è accaduta un anno e mezzo fa e ha coinvolto la moglie di un boss dell'Andrangheta. La donna era stata fermata all'alba dai carabinieri, ma risultava presente sul posto di lavoro perché qualcuno aveva timbrato il cartellino per lei. È la vicenda di AN, 53 anni, moglie del boss dell'Andrangheta DC. La donna era stata arrestata dai carabinieri perché coinvolta nell'operazione Anaconda, che cercava di stanare un'organizzazione di usurai ed estorsori. L'azione portò all'emissione da parte della DDA di Catanzaro di 32 provvedimenti di fermo, uno dei quali proprio contro DC, già detenuto per altra causa. Alle 4 del mattino i carabinieri si presentarono nell'abitazione della donna per la notifica del provvedimento di fermo, conducendola poco dopo nel carcere di Castrovillari. Il fatto strano, però, è che alle 7.10 dello stesso giorno qualcuno timbrò il cartellino della donna arrestata, dipendente dell'ufficio del catasto di Cosenza. Gli inquirenti ritennero che quel qualcuno avesse timbrato il cartellino della donna senza sapere che era stata arrestata. Un favore che probabilmente era già stato fatto in passato alla riverita signora. L'anomalia è che la stessa premurosa persona timbrò poco dopo l'uscita, una permanenza virtuale durata una quarantina di minuti circa. Il collega complice della donna, dopo aver appreso dell'arresto, tentò probabilmente di correre ai ripari, timbrando il cartellino anche in uscita, per far credere che l'impiegata era comunque passata in ufficio, senza così incappare in sanzioni. Ma quel gesto ha soltanto complicato la situazione, rendendo ancora più evidente l'imbroglio che era stato commesso. Sono ancora sotto indagine alcuni impiegati del catasto. Eppure, in soccorso dei dipendenti fantasma, è arrivata una sentenza della Cassazione. Quella stessa Corte di Cassazione, con sede nell'antico palazzaccio di Piazza Cavour a Roma, dove alcuni impiegati furono immortalati lo scorso anno dalle telecamere nascoste di Repubblica TV, mentre timbravano e poi andavano a fare una lunga colazione al bar, oppure accompagnavano i figli a scuola, I giudici recentemente hanno sentenziato che, a diritto all'attenuante del valore lieve, il dipendente pubblico condannato per truffa per aver timbrato e poi essere uscito solo per qualche ora. La sentenza numero 32.290 del 24 agosto 2010 ha così accolto il secondo motivo del ricorso di un dipendente comunale condannato per truffa perché usciva, dopo aver timbrato, durante l'orario di lavoro. I giudici di Piazza Cavour, confermando la condanna per truffa, hanno riconosciuto in sostanza all'uomo il diritto a uno sconto di pena, date le assenze limitate a poche ore e accertate solo in 3 occasioni. Una sentenza che ha riempito di gioia i dipendenti pubblici. Avete ascoltato la lettura di un brano estratto dal libro Fannulloni di Davide Pierluigi, edito da Newton Compton. Letture di Radio 24. Com'è andata la TV quest'anno? Come ha reagito all'introduzione del digitale terrestre nella maggior parte delle regioni italiane? E dove andrà la TV generalista ora che sono disponibili più canali e più tematizzati? Risponde Maurizio Costanzo. Avvicinandosi la fine dell'anno, proviamo a guardare indietro come da settembre a dicembre sono andate le televisioni. In questo fine 2010 la novità è sicuramente rappresentata dalla nascita di molti canali digitali di Mediaset e della Rai. E indiscutibilmente le nuove proposte entro tempi ragionevolmente brevi conquisteranno pubblico. Chi ama i film, o chi lo sport, o altro, troverà risposta. Per il resto, la televisione generalista è stata caratterizzata da una rincorsa alla cronaca, come è accaduto per Avetrana e per Iara. I pomeriggi e alcune seconde serate sono state appannaggio di questi argomenti. Eccellente per la conduzione di Salvo Sottile, come per la presenza di Alessandro Meluzzi, Barbara Palombelli, Massimo Picozzi e il generale Garofano, il programma di Rete 4, Quarto Grado. Le fiction sono andate in maniera alterna, ma globalmente non possiamo dire che siano state, specie per la Rai, proposte insufficienti. Non sempre riuscite al 100%, ma talvolta di qualità. Ad esempio, ancora complimenti per Filumena Marturano, di Edoardo De Filippo, interpretato da un eccellente Massimo Ranieri e da una straordinaria Mariangela Melato. Marca visita, come sempre, il varietà, in quanto non si riesce a sbloccarlo e rimane ancorato al game o alla un po' stucchevole proposta di Bambini che cantano. I migliori anni, condotto da Carlo Conti, è un buon format, ma non si può continuare a spremerlo perché fra un po' dovranno scritturare cantanti nei paesi del terzo mondo. Come detto più volte, sono stati anche i mesi del successo del materiale di repertorio tratto dalle teche Rai, come Da Da Da. Ma quel che è sostanzialmente mancato nella programmazione è un pizzico di imprevedibilità. E senza imprevedibilità non si va molto lontano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I format per le feste? Troppo prevedibili, di Maurizio Costanzo, pubblicato dal Messaggero del 21 dicembre. La rivista scientifica Science ha selezionato 10 scoperte scientifiche avvenute nel decennio che si chiude fra poche ore, destinate a segnare anche il nostro futuro. Tra queste, l'inserto Domenica del Sole 24 Ore ha deciso di sceglierne una, trasformandola nella vera e propria scoperta del decennio. È lo studio delle IPS, cellule staminali pluripotenti indotte. Perché sarebbe la migliore del decennio? Perché funziona e forse ci permetterà di superare lo scontro ideologico tra cellule embrionali sì e cellule embrionali no. Le staminali embrionali hanno 2 proprietà decisive: la proliferazione e la pluripotenza. Sono capaci di crescere vigorosamente e di differenziarsi in tutti i lignaggi cellulari del corpo adulto, una capacità detta pluripotenza, dai neuroni ai muscoli cardiaci. Nel 1998 James Thomson è riuscito a generare staminali embrionali umane, un successo che suggeriva la possibilità di trapianti cellulari per curare malattie finora inguaribili. Teoricamente è possibile differenziare le staminali embrionali in neuroni, cardiomiociti, cellule epatiche o pancreatiche beta. Se si riuscisse a produrne in grandi quantità, si potrebbero trovare applicazioni cliniche per trapianti in pazienti affetti da Parkinson o da lesioni del midollo spinale. Ma le applicazioni devono superare due grossi ostacoli: l'eventualità di un rigetto immunitario e obiezioni etiche all'uso di embrioni umani. Quando ho preso la direzione del mio laboratorio all'Istituto di Scienza e Tecnologia di Nara, in Giappone, ho deciso che con il mio gruppo avremmo cercato di generare un nuovo tipo di staminale pluripotente che aggirasse entrambi i problemi. La mia idea era riprogrammare cellule somatiche di pazienti e di farle tornare indietro nel tempo. Il concetto di riprogrammazione cellulare risaliva al 1962, quando John Gurdon aveva ottenuto girini con il trasferimento in uova enucleate di rospo del nucleo estratto da cellule intestinali di un altro rospo, il metodo poi usato per clonare la pecora Dolly. Cominciamo a cercare i fattori che mantengono l'identità di una staminale embrionale, cioè i geni espressi specificamente in quelle murine, e prima di trasferirci a Tokyo nel 2004 ne avevamo identificati 24. Sapevamo che una volta introdotti in cellule somatiche comparivano colonie di cellule simili a staminali embrionali, ma non sapevamo quali fossero determinanti. Eliminando un fattore per volta, abbiamo scoperto i quattro fattori di trascrizione necessari e sufficienti, e nel 2007 siamo riusciti a generare iPS umane nello stesso momento in cui ci riusciva il gruppo di James Thompson. Poco dopo, altri laboratori replicarono i nostri risultati. Oggi generiamo iPS da cellule somatiche prelevate dalla pelle o da fibroblasti di pazienti che coltiviamo per 2 o 3 settimane prima di introdurci i 4 geni. Settimane dopo, in coltura emergono colonie di iPS, alcune centinaia per colonia, che si possono differenziare in qualunque cellula somatica, un potenziale enorme per la medicina. Ci vorranno anni di ricerca e di esperimenti clinici rigorosi per capire se se ne possono trarre applicazioni mediche efficaci e sicure. Nei topi si è già visto un effetto terapeutico per l'anemia falciforme, il morbo di Parkinson, l'emofilia A, le lesioni del midollo spinale, l'anemia di Franconi. La tecnologia delle iPS serve anche a creare modelli in vitro di determinate patologie per accertare la tossicologia o meno di un farmaco o per determinare i meccanismi di patogenesi. Non che sia semplice ricapitolare la malattia di un paziente in iPS derivate dalle sue cellule, potrebbe essere più facile fare modelli di patologie di origine genetica. Infatti, nei neuroni motori differenziati a partire da iPS derivate dalle cellule di un giovane paziente con un'atrofia muscolare spinale, si sono osservati deficit assenti nei neuroni motori derivati dalle cellule sane di sua madre. In molte malattie neurodegenerative i sintomi si sviluppano dopo molti anni. Nel 1936 e nel 1937 Lou Gehrig, famoso giocatore di baseball americano, aveva una media di 350 battute. L'anno dopo calò bruscamente, l'allenatore pensò che fosse bruciato e i New York Yankees non gli rinnovarono il contratto. Solo dopo gli fu diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, di cui morì nel 1941 a 37 anni. È una malattia fatale, causata dalla degenerazione dei neuroni che controllano i movimenti dei muscoli. A quasi 70 anni dalla morte di Lou Gehrig, ancora non esistono terapie efficaci, in parte perché non esistono modelli affidabili della malattia. Le iPS generate da cellule di pazienti e poi trasformate in neuroni motori hanno lo stesso DNA del paziente. Se i sintomi fossero ricapitolati in quei neuroni, si potrebbero usare per chiarire i meccanismi che portano alla sclerosi e per testare possibili farmaci. Per quanto riguarda i trapianti, abbiamo ancora molti progressi da fare. Poche iPS non ancora differenziate possono generare teratomi, una forma di tumore, quindi bisogna accertarsi che ne rimangano il minimo possibile in quelle differenziate da trapiantare. E prima di trapiantare quelle non differenziate, dobbiamo essere sicurissimi che la riprogrammazione di ogni singola iPS sia completa. Ci servono anche metodi semplici e insieme accurati e affidabili per valutare l'efficacia e la sicurezza di molti cloni e subcloni di iPS ottenute con le diverse tecnologie. Non sarò mai in grado di sottolineare abbastanza che non sarebbe stato possibile generare le iPS e realizzare progressi così rapidi da quando si sono isolate le prime staminali embrionali del 1981 senza i molti studi che hanno utilizzato le cellule staminali embrionali umane e di topo. Credo che gli sforzi concentrati dei ricercatori di tutto il mondo realizzeranno le promesse delle iPS in un futuro non troppo distante. Avete ascoltato la lettura di alcuni stralci della relazione In queste cellule, la medicina del futuro, a firma della ricercatrice Shina Yamanaka e pubblicati da Il Sole 24 Ore nell'inserto culturale domenica del 19 dicembre. Il 20 dicembre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha incontrato le massime autorità dello Stato per il tradizionale appuntamento di fine anno. Ve ne riproponiamo alcuni stralci, in attesa del discorso di fine anno in onda questa sera, alle 20.30 anche su Radio 24, nel corso della Zanzara. L'Italia può e deve farcela nell'attuale, per quanto difficile, fase storica. Ne abbiamo le potenzialità, le risorse umane, le energie culturali, tecniche, imprenditoriali. E possiamo nuovamente esprimere lo stesso formidabile scatto di volontà, impegno costruttivo, slancio innovativo che ci portò a celebrare nel 1961, centenario dell'Unità d'Italia, i risultati superiori a ogni previsione, conseguiti uscendo dalla dittatura e da una guerra distruggitrice. Ma la condizione per farcela ora è guardare in modo impietoso alle debolezze da superare. La condizione è prendere piena consapevolezza, noi tutti, dei rischi che corriamo e della durezza delle prove che ci attendono, non solo nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni. Lasciatemi dire che da questa comune consapevolezza siamo oggi lontani. Ne sono lontani i fatti e le amare cronache della politica, i contenuti e i toni di una continua contesa che tanto incide negativamente sulla vita delle istituzioni repubblicane, soprattutto a livello nazionale, impedendo loro più fecondi confronti, precludendo loro più soddisfacenti risultati. Decisivo è dunque in Italia un salto di qualità della politica, decisivo per la stabilità e continuità della vita istituzionale e per la tenuta del sistema Italia in un contesto europeo percorso da così forti scosse e tensioni. Ho naturalmente sempre presenti le distinzioni essenziali. La sorte di ogni governo è decisa dal Parlamento, che accorda e revoca la fiducia. La durata delle legislature parlamentari è fissata in Costituzione, in termini temporali analoghi a quelli fissati negli altri paesi democratici. Termini non fissati casualmente, ma corrispondenti al tempo necessario per l'attuazione di un programma politico di adeguato respiro. A esigenze di governabilità e di stabilità dell'esecutivo, ha mirato la riforma elettorale del 1993, cui non sono peraltro seguite coerenti riforme istituzionali. Ma l'esperienza compiuta ci dice che anche in parlamenti eletti con leggi maggioritarie è pur sempre la politica, è l'evolversi dei rapporti e dei conflitti politici ed è la capacità di padroneggiarli che determina la stabilità della coalizione di governo premiata dagli elettori. Resta invece nel nostro ordinamento prerogativa del Capo dello Stato, poco importa che la si possa beceramente sminuire a parole, sancire l'impossibilità di completare una legislatura parlamentare e quindi sciogliere le Camere. Quella degli scioglimenti anticipati è stata un'improvvida prassi tutta italiana, da cui speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell'interesse generale, specie in periodi così gravidi di incognite. Non a caso io ritenni, a metà agosto, mentre a seguito di una clamorosa rottura politica nel maggior partito di governo, già precipitosamente si evocavano elezioni anticipate, di dover chiamare tutte le forze politiche a riflettere sulle conseguenze per il Paese dell'andare verso un vuoto politico e verso un durissimo scontro elettorale. La conquista, a partire dal 1994, di un'effettiva democrazia dell'alternanza non deve essere messa in forse. Si guardi tuttavia a come in Europa paesi con sistemi politici da lungo tempo fondati su schemi bipolari o bipartitici, consolidatisi nei decenni, stiano conoscendo mutamenti di scenario e sperimentando le soluzioni che risultano possibili e opportune. E si torni a riflettere su esigenze di rinnovamento costituzionale che sembrava non fosse difficile soddisfare in questa legislatura, almeno con misure di riforma già apparentemente condivise. Continuerò, dal canto mio, a sollecitare la continuità della vita istituzionale e dunque di una legislatura al cui termine mancano più di 2 anni. Sempre che, ben inteso, vi sia la prospettiva di un'efficace azione di governo e di un produttivo svolgimento dell'attività delle Camere. Opererò in ogni circostanza, secondo regole e prassi costituzionali cui intendo doverosamente attenermi, nei limiti del mio ruolo e delle obiettive possibilità, tenendo ben conto della volontà espressa dal corpo elettorale del 2008. Opererò soprattutto perché ora e nel futuro, indipendentemente dalla definizione delle soluzioni di governo, si realizzi quello spirito di condivisione di cui ho detto, chiarendo il senso di quell'espressione, il valore di quell'istanza. È qui il salto di qualità della politica che in larga misura il Paese si attende, perché è in gioco la moralità e dignità della politica, perché c'è stanchezza verso la chiusura in se stesso del mondo politico, verso la quotidiana gara delle opposte faziosità, verso il muro dell'incomunicabilità tra maggioranza e opposizione. C'è da colmare un distacco ormai allarmante tra la politica, le istituzioni e le forze sociali e culturali, in un paese che pure continua a dare tante prove di senso di responsabilità, di dinamismo, di coesione e di solidarietà. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del discorso del 20 dicembre del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, pubblicato dal Riformista del 21 dicembre.